voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ottavio Missoni, l'uomo dei colori, di Valentina Furlanetto. Buongiorno da Valentina Furlanetto. Il protagonista di oggi è Ottavio Missoni, che ci accoglie nel suo studio ricoperto di stoffa e circondato dai boschi a Sumirago, in provincia di Varese. Dici Missoni e ti viene in mente quell'inconfondibile maniera di tessere il cotone che ha fatto della casa di moda uno dei nomi più importanti del lusso in Italia. È anche una delle aziende più solide del paese, 65 milioni di euro di ricavi nel 2005 per la capogruppo che si occupa della prima linea dell'abbigliamento. Ma Ottavio Missoni non è solo uno stilista e un imprenditore, ma anche un atleta, un soldato, un esule e il patriarca di una grande famiglia. Non sono un buon imprenditore, infatti mi è andata bene con l'azienda, perché l'imprenditore deve avere varie qualità, due qualità fondamentali che non ho proprio come mentalità. Non mi piace né essere comandato, ma però non mi piace neanche comandare. Invece un imprenditore deve sapere anche comandare. I grandi, no? Imprenditori, da Napoleone, devono essere capaci di comandare. Io invece mi manca questa qualità. Vivere contempla fare quei disegnini, contempla piantare un fiore, contempla leggere un libro, contempla a fare una gara agonistica. E poi ho fatto anche l'imprenditore, se così vuol. Mi sono messo con queste maglie, ho incominciato a fare le maglie e ci è andata bene. Talmente bene che il marchio Missoni è conosciuto in tutto il mondo, ma paradossalmente quel nome che ora rappresenta il Made in Italy non ha un'origine italiana. Il cognome è di origine francese, Bretton, e c'è fra Misson, che poi non si sa quanto sia il cognome è quello, un famoso pirata Misson, che era un famosissimo pirata. Da leggere la storia di questo pirata, perché ha fatto questa Repubblica del Madagascar, lui, sotto il nome della libertà, è uno che aveva liberato tutti gli schiavi, il suo motto era libertà, non faceva prigioni, lui liberava tutti, e il suo motto era la libertà. Ed è molto singolare che poi il poeta Bairo lo ha definito l'uomo più mite che abbia mai affondato una nave o tagliato una testa. Questa è la fine della storia. Io questa frase, l'uomo più mite che abbia mai tagliato una testa, ho sentito in un film di Olmi, cantando dietro i paraventi, che lui racconta la storia di pirateria cinese. Allora con Olmi, ma senti, ma sta cosa... E lui l'aveva presa lì, ma lui sapeva tutto del pirata Missoni, più di me sapeva. Ottavio Missoni è legato da amicizia al regista dell'Altopiano di Asiago, come testimonia la foto di un Missoni cinquantenne in compagnia di Ermanno Olmi e Arnaldo Pomodoro che troneggia all'entrata dello studio. Da qui, quando il cielo è terso, si vede la cresta del Monte Rosa. Ma da dove l'imprenditore è nato, invece, si vedeva il mare. Era l'11 febbraio 1921. E sono nato a Ragusa, quello che adesso viene chiamato Dubrovnik, ma quando sono nato io sulle carte geografiche era ancora Ragusa. Poi nel 18 che si è creato il nuovo regno della Jugoslavia e la Dalmazia è passata dall'Austria a questo nuovo regno della Jugoslavia, loro l'hanno chiamata Dubrovnik, rifacendoci, non voglio fare la storia, a certe tribù dubrovciani che erano stati ospitati da Ragusa. All'epoca Ragusa è stata 800 anni repubblica sovrana e indipendente, va bene? No. Chiaro che 800 anni nella storia umanità sono niente, ma nella recente storia moderna 800 anni sono qualche cosa. Mio papà anche lui era nato a Ragusa, mio nonno invece era magistrato a Ragusa, giudice, mio papà era ufficiale marino strongarica, ma mia mamma invece aveva questi due figli. Mio papà era uomo de mar, navigava sempre, ha preso due figlie e si è trasferita a Zara, dove c'erano tutte le scuole italiane, dal liceo alle... Poi fra l'altro, non so, io non ho mai frequentato, perché mia mamma fra l'altro mi lasciava dormire tranquillamente. Una volta ha dato anche un consiglio alla Rosita, che eravamo qui da lei gli ultimi anni, lei era qui a Gola Secca. Era domenica, abbiamo guardato, allora c'erano i caroselli, c'era... la televisione, e la Rosita, per non per giustificare il fatto che dovevamo andare via, per dire, sai mamma, domani mattina i bambini avranno avuto 10-12 anni, sai domani mattina i bambini devono andare a scuola. Mia mamma le ha preso la mano e gli ha detto, ma no ti Rosita, svegliarli così presto di mattina, no, i te diventa nervosi, le ha detto. E vabbè, mia moglie mi ha detto una volta, vabbè a te non ti svegliava, ma però sul nervoso non è che le è riuscito molto bene. E vabbè, cosa c'entra? Tu non sai quanto di più nervosi avrei potuto essere se mi avessi svegliato al mattino. No. E così poi ho vissuto tutti gli anni giovani a Zara, senza andare a scuola. E l'ultimo Natale l'ho passato a Zara nel 1941. Era periodo di guerra, io in quel periodo sono andato a fare il militare e a Zara non ci sono più ritornato. È rimasta mia mamma. Io poi ho fatto la guerra, ho fatto la main, la battaglia della main. Una volta raccontavo questa storia in televisione, si è divertita la mia nipotina, non mi lasciava parlare, e c'era Pippo Baudo, voleva che io raccontassi la fase eroica di questa battaglia. E ho detto, no, io ero là, in linea, stavo rientrando alle linee, pensavo che ci fossero i nostri. No, invece erano già lì i neozelandesi. Come on, 4 anni, finita la mia storia eroica della battaglia di... Naturalmente la battaglia l'ho fatta, anche una notte abbastanza intensa fra due fuochi, ero là e devo dire, riflettevo perché il paragone anche mi faceva abbastanza sorridere, perché da una parte c'ero io, Fante, semplice Fante, da una parte, e dall'altra c'era l'impero britannico, mica una roba da ridere. Quattro anni, va bene, in Egitto, prigioniero, chiamo dire che ero ospite di Sua Maestà Britannica, hai capito? 4 anni, però anche un tempo, tutto sommato, non auguro a nessuno di fare la prigionia, ma però devo dire anche quello come esperienza, non la capisci subito, ma probabilmente ti si riflette nella vita dopo questa esperienza, non parlo per la salute, ma se non altro per il rapporto col prossimo. E nel senso, io adesso ci vediamo adesso, poi ci vedremo fra un mese, forse non ci vedremo. E lei vivrà delle mie impressioni che ha avuto con me, buone o cattive che se siano. E succede normalmente con le conoscenze, con qualche amico. Ma se tu sei in prigionia e vivi gomito a gomito per 4 anni con un amico, non ci sono trucchi. Tu quella persona la conosci, no. Cioè, il prossimo non può avere dei trucchi con te, tu. E lo cominci e lo capisci e lo annusi, e annusi il tuo branco, capisci che so, probabilmente poi anche in seguito nella vita ti serve per annusare il prossimo. Può essere, parlo questo retrospettivamente, questo può essere un'esperienza che dà la prigionia, capisci? Poi una volta i miei due passatempi preferiti erano il dormire e il leggere. Per cui là in prigionia 24 ore al giorno disponibili per dormire e leggere. Io ho imparato a leggere lì, leggevo anche prima, ma chiaramente in prigionia ho potuto condensare questa. E siccome trovo che la lettura e anche il dormire, ma adesso meno purtroppo, è un miracolo la lettura. E anche i miei figli l'ho raccomandato, mettevo sempre, spargevo i libri un po' dappertutto. Pensa quante cose sono state scritte dai greci, i greci inteso come greci, no? Allora dai greci a tutt'oggi pensa quanta roba è stata scritta di viaggi, di poesie, di filosofie, di tutti i tipi, no? Di grandi storie. Anche oggi tu con, come li chiamano, pocketbook, li chiamano così, non so cosa costano oggi, 4 euro, 5 euro, 6 euro costeranno. E tu passi una bella serata in compagnia del signor Voltaire, ti è costato 6 euro, ma non è miracolo. Ma dico Voltaire, ma io leggevo tutto, non avevo una preferenza esatta nella lettura, non so, anche i grandi viaggi, ci sono dei scrittori che hanno scritto Conrad, anche Mark Twain mi pare ha scritto di viaggi, ma non solo, leggevo mica solo storie di viaggi, leggevo anche la poesia, leggevo all'epoca c'erano quegli italiani, dei scrittori anche che scrivevano robe svelte, mi ricordo, c'era un certo Baldini, mi ricordo, scriveva Carino, purtroppo leggo poco adesso. mi manca l'interesse, mi manca lo stimolo, ma non solo per la legge, per tante cose purtroppo, è colpa mia, eh. Allora faccio fatica a leggere, poi c'ho questi amici, che loro fanno più in fretta loro a scrivere, che io a leggere non ce la faccio, come fai a stare lì dietro? L'altro giorno ho detto Magris, forse lei capirà, sono 140 pagine. Ma il libro prima, io ho letto il suo Danubio, ho letto i suoi microcosmi, adesso ha scritto un libro di 600 pagine. Ma gli ho detto, guarda Claudio, ti ho mandato quel libro, ti ringrazio, guarda, ma ti devo confessare che ti tengo in buona compagnia, eh. Sei là in biblioteca, vicino a Joyce, che ha scritto quest'altra famosa storia, l'Ulisse. E un altro libro che gli ho detto che tutti abbiamo comprato e nessuno l'ha letto, così anche il tuo sta in compagnia. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. A Voci d'impresa oggi protagonista Ottavio Missoni. Dopo il matrimonio nel 53, nel 1954 nasce il primogenito Vittorio e due anni dopo Luca. Il 1958 segna le prime apparizioni degli abiti della Maison nelle vetrine di Piazza del Duomo, all'interno dei quali è stata cucita da poco l'etichetta Missoni. Il 26 dicembre nasce la terza figlia Angela. Anni di vita intensa e intenso lavoro. Abbiamo imparato il mestiere di fare la maglia giorno per giorno, non è che siamo andati, ce lo siamo inventati noi quotidianamente con la curiosità di vedere, di fare, di tradurre. Io mi ricordo all'epoca c'era dei filati proprio belli, ma sempre io andavo a cercare dei filati nelle tessiture. Io sono stato il primo senz'altro ad andare a stampare la maglia a Como, che mi cacciavano via pedate, non avevo quintalate di pezzi da stampare, da sperimentare, e ho trovato uno che me le stampava, ma certi filati proprio nell'azienda della Rosita. Lei ha recuperato il Rayon, quello multifiammato, che i nonni suoi la usavano per fare negli anni 20-30 i scialli, sai, ricamavano, allora i fiori venivano tutti rifiammati, venivano tutti multicolorati. Vabbè, io sempre racconto questa cosa, che all'epoca eravamo famosi per le righe, ma la verità è che avevamo queste macchine che poteva far solo che righe. Poi abbiamo avuto delle macchine che hanno cominciato a fare i zigzag, allora siamo diventati bravi quelli dello zigzag. Poi abbiamo avuto le macchine che facevano linee verticali e linee orizzontali, messe assieme, e così abbiamo cominciato a fare anche gli scozzesi. E così abbiamo fatto giorno per giorno, abbiamo inventato questo mestiere, finché un giorno abbiamo fatto una collezione, la Rosita ha preso questi vari capi di cose, ha messo tutto assieme, gli americani hanno chiamato il put together, l'hanno chiamato, che poi mi hanno tradotto, vuol dire metti assieme, è andata questa nuova forma, che non è proprio un'invenzione pura, il puttughe, perché io ho detto anche che in giro per il mondo, sempre andando, i pastori di tutte le fasce mondiali, i sardi, li ho visti, sono puttughe bellissimi. Lo stile Missoni è ispirato alla cultura artistica europea, in particolare l'arte astratta, informale, ma anche alla natura. Non penso che ci sia una cosa esatta che ti ispira. È tutto un complesso di componenti che poi ti fanno, determinano l'ultimo gesto e una scelta. Evidentemente può succedere, se lei guarda quel tronco di quella betulla, vede? È una grafica precisa, se lei la stampa, la traduce, la stampa, è per un abito anche, e non è perfetta già, vuol dire. Ma questo non vuol dire che la betulla ti ispira a fare quel genere. La natura ti ispira perché tu vivi in mezzo alla natura. I colori, ma li prendi dalla natura, ma non è che tu c'hai un'ispirazione esatta. Guardi i verdi, no? Dici verde, ma sono 10.000 tonalità di verde. Ma poi si parla dei colori. Dappertutto, la città dei tramonti, il mare, solo il mare pensa a quante sfumature di colore c'ha, dall'azzurro al turchese, ma così tu, poi non parliamo se guardi i pesci, se guardi le farfalle, diventa una cosa, ma anche la campagna stessa, quella dell'estate, quella del grano, quella di girasole, non so, i colori del vino, hai visto, guarda, allora tutto questo insieme ti abitui probabilmente a vedere le cose e poi tradurle nell'ultimo gesto, i colori. Perché li metti in un certo modo? Io, se qui abbiamo dei colori, io li do e giochiamo i colori come i bambini, no? Fammi quattro righe, vedrai che siamo in 10 persone, sono 4 righe e vengono 4 righe diverse, no? Tornando all'arte, io una volta ho detto che i colori mi faceva paragonarli alla musica, no? La musica c'ha 7 note, no? Pensa che con quelle 7 note, cosa è stato composto sempre in questi ultimi 2500 anni di melodie e di storie in musica, no? Di tutti, pensa quante cose sono state. Le note erano sempre 7. E così anche i colori, più o meno, sono 7 di base. Ma con le varie tonalità sono infiniti, non esiste un colore, esistono tutte queste tonalità infinite. Allora anche lì, pensa quanta roba in pittura, in arte è stata composta con questi 7 colori. È chiaro, l'arte la guardo, ma come guardo tante altre cose, come guardo anche un campo in fiore, non è? E chiaramente poi magari c'è un'arte un po' che ti influenza, non capi, ma ti influenza, come anche le letture. Evidentemente tutte queste letture, o poche o tante, non sai quale è quella che ti ha influenzato esattamente, ma certamente un complesso di considerazioni, di storie, di vie, ti influenzano poi anche nel tradurre il tuo modo di pensare, anche tradurre il tuo modo di agire. Ho osservato molto attentamente anche l'arte popolare, diciamo quella folcloristica. Fra l'altro, osservando queste cose, naturalmente ho visto che sulla fascia delle Ande, ho detto, più di 3.000 anni che mi copiano sulla fascia delle Ande. Guarda, hai capito? Poi fra l'altro mia moglie è andata anche in Egitto a vedere le vecchie cose egiziane. Lei era lì a fare le vacanze in Marossa, ne è andata invece anche lì, dove c'è la valle famosa egiziana. E anche lì ha scoperto. Non c'è un punto esatto da ricavare. Missoni non guarda la televisione, non sente la radio, sfoglia, dice qualche giornale per curiosità. Di quest'Italia sembra avere una visione affettuosamente distaccata. Si considera un triestino di adozione, ma si sente dalmata e nel corso degli anni è tornato spesso sulla costa dalmata con la moglie e i figli in barca. Io sono parte di quei 360.000 esuli o porofu, non so come vuoi chiamare, il che non vuol dire che ho il passaporto italiano e mi sento italiano. Che rapporto ho con quest'Italia? Ma un rapporto come ce l'hanno tutti. Devo dire, attualmente io amo questo paese, ma io non ci ho mai pensato un attimo di andare, pur conoscendo gli altri paesi dell'Australia, la conosco, è un paese straordinario, ma per nascerci, se dovessi scegliere, potrei scegliere l'Australia, ma non per andarci, vabbè. Io sono rimasto qui, qua ho i miei amici, c'ho il mio vino, il mio verde, la mia campagna, a parte la Lombardia, ma il mio Veneto, Trieto. Io ho un buon rapporto col paese. Ma se guardo questo paese in termini sociali, politici, purtroppo devo dire non è che sono il meglio di un periodo. Non so, vedi, da tutte le parti, non parlo per gli scavi, qui sono da tutte le parti del mondo, ma gratta gratta vinci sempre qua, qualunque cosa gratti, non ti so dire. Mancano. Non so, anche nei giorni, non senti un qualche cosa che li lega, non senti qualcosa che gli dà sostanza, ma forse anche perché sono questa continua delusione. Da noi ci sono delle piccole e medie industrie che sono straordinarie, degli imprenditori straordinari, sono il tessuto che tiene assieme questo paese, sono questa gente qua. I Missoni hanno sempre sostenuto di sentirsi più legati all'industria che allo sfruttamento del marchio. E infatti l'azienda, grazie allo stabilimento di proprietà di Sumirago, produce direttamente con 250 addetti i suoi capi. L'80% della produzione viene poi esportato, per la metà negli Stati Uniti. Il dollaro debole non fa bene ai conti che comunque tengono. La capogruppo ha chiuso il 2005 con ricavi per 65 milioni di euro. Nel 1996 i tre figli, Angela, art director, Vittorio, responsabile commerciale, e Luca, responsabile tecnico, prendono le redini della Maison. A garantire il futuro del nome ci sono anche 9 nipoti. Ottavio Missoni si occupa sempre meno dell'azienda. Lavorare niente, adesso mi danno i figli, mi danno, io chiamo che mi danno dei compiti, io ogni tanto magari glieli faccio, ecco, ma no, però l'azienda ce l'hanno loro, i tre figli, io la seguo molto da lontano, benedico, ma non voglio, no, basta, no, non ho orari, mai avuti, ma però adesso assolutamente niente. Invece se la Rosita, lei continua, la moda l'ha lasciata tutta in mano alla figlia, l'Angela, c'è tutta lei adesso la moda in mano. E lei adesso invece si dedica a tempo pieno alla casa, con i suoi fratelli, la Vesto, lei fa la missione home, e dedica tutto quello che è, l'arredamento della casa, dai tappeti, al lenzuolo, bravissima lei. Adesso invece c'ha in piedi di vestire gli alberghi, perché verranno, sono già progettati due tre alberghi che si chiamano alberghi Missoni, si chiameranno proprio così, e lei è incaricata a vestirli. Recentemente mi occupo solo di giardinaggio. Anche il marchio Missoni, dopo Armani, Versace e Bulgari, si è lanciato quindi nel business del settore alberghiero. Le mostre che ospitano le creazioni Missoni si moltiplicano. Dal Nagoya City Museum in Giappone al MoMA di New York, solo per citarne alcune. Ma se si chiede a Ottavio Missoni di definirsi, il ritratto è degno dell'erede del pirata Misson. Mi spiace cercarmi delle definizioni, ma dovendo riflettere al mio passato, alla vita, io gioco questa base di romanticismo anarchico, no? E da lì né comandare né essere comandati. Viaggi, una sua storia dei rivoluzionari, ma messo fra i rivoluzionari, ma messo nel senso che nel nostro campo abbiamo fatto qualcosa di diverso e di nuovo, perché l'idea non è quella di andare contro le regole. Istintivamente ti viene, devi risolvere un problema, chiaro, bisogna conoscere le regole, però non è necessario seguirle se vuoi fare qualcosa di, non dico di nuovo, di diverso, no? Se tu segui le regole non sarebbe successo mai niente. Non parlo nel mio campo di mettere quattro colori assieme, ma parlo anche nel campo della tecnica, della medicina, delle scuole. E sono tutto gente che è andata contro le regole e ha fatto qualcosa di nuovo. Uno dei primi è che le regole non esistono. La puntata di Voci d'Impresa termina qui, grazie a Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. A Voci d'Impresa oggi protagonista Ottavio Missoni. Dopo il matrimonio nel 1953, nel 1950.